Le note solenni che ci introducono in questo primo spazio dedicato a San Pio X sono quelle dell'inno ufficiale scritto in suo onore da Monsignor Marco Frisina ed eseguito alcuni mesi fa, inno che avremo modo di risentire più volte anche in versione integrale. La nostra rubrica che ci accompagnerà appunto in quest'anno centenario ha un titolo particolare che è Beppi Nostro Santo di tutti. Beppi perché da giovane, ma anche da sacerdote, quando era ancora sacerdote, Giuseppe Melchiore Sarto, Papa Pio X, si faceva chiamare Beppi in dialetto. È nato, come sapete, a Riese Pio X, però un santo di tutti, come lo ha definito il vescovo di Treviso, Monsignor Gianfranco Agostino Gardin, nel messaggio alla diocesi in occasione dell'apertura di questo anno centenario. Un anno ricchissimo di iniziative che è già partito alcuni mesi fa. Su di lui sono state già pubblicate due ricerche legate al mondo dello sport, una poco dopo le Olimpiadi, in coincidenza con le Olimpiadi di Londra, dedicate appunto al rapporto tra Pio X e le Olimpiadi. All'epoca di Pio X i giochi olimpici erano proprio agli albori, e poi l'anno scorso in occasione della tappa di Riese Pio X del Giro d'Italia, un'ulteriore ricerca sul rapporto tra Pio X e la bicicletta e quello che si pensava cent'anni fa o poco più di questo mezzo di locomozione, che all'epoca insomma era piuttosto scandaloso, soprattutto se usato dai sacerdoti. Tantissime iniziative, c'è un comitato per il centenario che già sta lavorando e ha predisposto moltissimi appuntamenti. Li ricorderemo in questo spazio, ma innanzitutto vi proponiamo la nostra intervista esclusiva che avevamo fatto il 12 giugno scorso, giorno ufficiale dell'apertura del centenario, al cardinale Angelo Comastri, che aveva presieduto la Santa Messa di invio, vicario del Papa per la Città del Vaticano. Al cardinale Angelo Comastri abbiamo chiesto innanzitutto una considerazione sull'attualità della figura e dell'opera di Pio X. Eminenza, Pio X è una figura importantissima, è passato appena un secolo, che nella storia della Chiesa non è molto. Cosa c'è a suo parere di significativo del suo pontificato che è ancora attuale oggi? Mi sembra bello sottolineare che Pio X ha vissuto i primi 18 anni del suo sacerdozio in parrocchia. 9 anni a Tombolo, 9 anni a Salzano, quindi l'aria parrocchiale l'ha impregnato ed ha segnato tutto il suo futuro. Possiamo dire è stato un vescovo parroco, un cardinale parroco e un papa parroco, tant'è vero che i francesi lo chiamavano il parroco del mondo, e avevano ragione. Il taglio pastorale ha segnato, si può dire, tutto il suo pontificato, tant'è vero che lui resta come il Papa del Catechismo, perché capiva che bisogna annunciare il Vangelo, bisogna comunicare la verità, perché la verità illumina, la verità dà senso alla vita. E in un'epoca come la nostra, in cui stiamo vivendo una crisi di senso della vita, quanto è importante l'annuncio del Vangelo, quanto è importante la catechesi, fatta bene. Si capisce, il suo catechismo è segnato dal tempo, però l'intuizione è autentica, profonda, attualissima, e la sta vivendo in termini nuovi il Papa Francesco. Anche lui possiamo dire che è il Papa della catechesi, il Papa dell'annuncio, con una sensibilità nuova, perché i tempi chiaramente sono cambiati, ma l'intuizione è sempre quella, è sempre intatta ed è sempre attuale. Dall'altra parte, ecco, Pio X è stato un uomo che ha sentito proprio come parroco il bisogno di allargare la possibilità di accesso ai sacramenti, in modo particolare alla comunione, per i bambini, ma il messaggio era per tutti, perché a quei tempi pochi si accostavano alla Santa Comunione. Ancora c'era nell'aria un po' di giansenismo che faceva pensare che tutto sommato non siamo degni, ecco, di accostarci al Signore, accostarci ai sacramenti, mentre invece i sacramenti sono il luogo in cui si fa la più grande esperienza della misericordia di Dio, e il messaggio per i bambini era anche per gli adulti. Queste due sensibilità sono, io credo, ancora oggi attualissime. Un centenario che inizia, la diocesi, non solo quella di Treviso, sta preparando molto. Che cosa se ne dice a Roma, dove Papa Pio X è sepolto? Beh, certamente Papa Pio X a Roma ancora è ricordato, possiamo dire che anche nelle grotte vaticane ancora è viva la memoria del luogo dove era il suo sepolcro, con accanto il suo segretario di Stato, Cardinal Merry del Val, che è ancora lì e vuole essere sepolto, così diceva lui, accanto al mio santo Papa. E ugualmente la sua tomba, che ormai è dirimpettaia a quella di Giovanni Paolo II, è un luogo di devozione. Un luogo di devozione che bisogna forse riscoprire nel suo autentico valore, perché San Pio X, ha scritto un grande storico, Roger Aubert, è stato il più grande papa riformatore dopo il Concilio di Trento. Quindi è un uomo che ha portato aria pastorale nel pontificato, ha portato sensibilità pastorale nel pontificato, e questo possiamo dire che è un cammino che sta andando avanti con forme, ecco, sempre più accentuate nel pontificato del Papa Francesco. In questi mesi la diocesi, i fedeli sono invitati a peregrinare nei luoghi di Pio X, lei ha un po' aperto la strada, è stato proprio a Riese oggi. Sì, sono stato a Riese e tra l'altro mi sono veramente commosso nel visitare la Casa Natale, anche i luoghi di San Pio X, perché io sono cresciuto in un seminario in cui San Pio X era un po' un riferimento ideale per noi, la sua infanzia, la sua fanciullezza, la povertà della sua famiglia, il desiderio del sacerdozio sentito in maniera forte, superando mille difficoltà. Noi l'abbiamo guardato negli anni della nostra formazione un po' come un ideale insieme al curato d'Arse. Quindi queste due figure, ecco, me le ritrovo in questo centenario e sento che riscoprendole riscopro anche le radici della mia fede e del mio sacerdozio. Il cardinale Angelo Comastri, che ha presieduto l'apertura ufficiale del centenario il 12 giugno scorso a Treviso, ma ci sono tantissimi appuntamenti anche nei prossimi giorni. Vi do il sito ufficiale che li raccoglie tutti, è centenariopiox.it, x proprio come lettera, la lettera che indica il decimo appunto nell'alfabeto romano, nell'alfabeto latino. L'appuntamento più vicino e più importante è il convegno internazionale di studi che sarà a Treviso il 24 di ottobre a Cade Carraresi e a Venezia il 25 di ottobre nello Studium Generale Marcianum alla Salute. Tantissimi appuntamenti in questa rubrica che ci accompagnerà appunto fino al giorno esatto dell'anno centenario, cioè il 20 agosto del 2014.